veramente dobbiamo pensare che Silvio Berlusconi sia un simpaticone per tutti e che Silvio Berlusconi, ma io non ho detto che è simpaticone, mi scusi, allora, ma io non sto dicendo questo. La democrazia, la mia opinione è questa, che se Silvio Berlusconi deve impegnare le aule del Parlamento le aule del Parlamento italiano, significa che ha nel DNA la tendenza a delinquere. Allora, o si guarda da se stesso, o si guarda da se stesso e la smette, o si sottopone ai processi, che è ancora meglio che quello. Vabbè, che ma questo qua va tutto bene, però non, cosa c'entra col DNA? Mi faccia finire, o evidentemente se lui non è in grado di stare con le mani ferme, di smacchinare, allora evidentemente ha qualcosa nel suo DNA che lo porta a compiere reati.